Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Se vuoi essere di classe, perché non vieni nel mio reparto? Ti aiuterò io. Splendido, grazie Rachel. Figurati. Va bene, ma manca qualcosa. Una borsa? Joy, vieni, fidati di me, te l'assicuro. Gli uomini le portano nel catalogo di primavera. Buongiorno, anche noi oggi parliamo di borse, non però dei modelli più glamour di quest'inverno, ma di due in particolare che, a dispetto della forma e del colore, non passano mai di moda e nelle nostre case non mancano mai o quasi mai. La boule dell'acqua calda e la borsa del ghiaccio. Le avete anche voi, immagino. Ci state pensando? Dove le tenete? Io le metto in ordine così bene che quando ne ho bisogno devo andare dalla vicina a farmi imprestare la sua. Ma risolto il problema dell'ordine, oggi cercheremo di capire quando è bene usare il caldo e quando è meglio usare il freddo, ancora quando è il caso di usarle entrambe, alternati. Se siete ferrati sull'argomento, 800 24 00 24, se avete dei dubbi, schiaritevi le idee, sempre chiamando il nostro numero verde. E in linea con noi abbiamo il dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo, primario fisiatra della riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Grazie, buongiorno Nicoletta. Allora, io ad esempio uso il freddo per i traumi, quando prendo magari una botta, lo uso anche con le distorsioni. Perfetto, indicazioni perfette. E poi d'estate ad esempio sulle punture d'insetto. Bene. E sul caldo? Costrizione, mentre il caldo, che è una metodica antica come il mondo, altrettanto antica come il freddo e altrettanto valida, la si usa in situazioni diverse, vale a dire quando non esiste una situazione di infiammazione acuta e quindi contratture muscolari, quindi quei dolori muscolari a livello cervicale o a livello delle spalle, quando abbiamo un'articolazione rigida e vogliamo mobilizzare la nostra articolazione, quindi quando abbiamo una tendinite un po' cronica, vale a dire che dura da parecchio tempo, ecco, tutte le situazioni che prevedono dolore, tensione muscolare, ma non situazioni di traumi acuti. 800 24 00 24, se volete intervenire, il dottor Melegatti ha già citato la cervicale. Possiamo fare un viaggio rapido dalla testa ai piedi, lungo, per capire quali sono le zone e i problemi che certo, si avvantaggiano dell'applicazione del caldo e del freddo, ma prima è anche una questione di tempo, dottor Melegatti. Noi abbiamo preso la boule e abbiamo preso la borsa del ghiaccio. Quando diciamo applicate la borsa del ghiaccio, quanto tempo dobbiamo tenerla? Almeno, ecco, tra 15 e 20 minuti, non meno, perché l'effetto del freddo poi non lo sentiamo, non arriva, non di più, perché c'è una sorta di effetto rimbalzo con una iperemia eccessiva e quindi con il ritorno magari del calore e del dolore. E lo stesso vale per il caldo? Anche per il caldo, magari il caldo moderato lo si può applicare per un tempo un po' più prolungato, però quando parliamo di caldo dobbiamo parlare anche del tipo di caldo, perché c'è un calore superficiale e un calore profondo, quindi dipende molto dalla fonte di calore che noi utilizziamo. Ci sono delle terapie fisiche che utilizzano proprio il caldo e il freddo, di cui parleremo nel corso della trasmissione. Vogliamo anticiparle rapidamente prima di fare un viaggio dalla testa ai piedi? Va bene, allora la terapia del freddo, la classica borsa del ghiaccio come lei ha già ricordato, o terapie un po' più sofisticate come l'immersione in acqua fredda o addirittura l'esposizione a temperature molto molto rigide, si parla di temperature che sono inferiori ai 100 gradi centigradi per pochi minuti, per sfruttare degli effetti positivi di cui parleremo. Per quanto riguarda il caldo ci sono diverse terapie fisiche, ultrasuoni, laser ad alta potenza, la tecarterapia, tutte queste che ho citato possono dare un effetto di calore profondo, mentre l'effetto di calore superficiale viene dato dagli impacchi caldi, dai raggi infrarossi, dall'idroterapia. Dottor Melegatti, cervicale quindi? Quindi tensione muscolare, quindi impacco caldo moderato per pochi minuti può aiutare a rilassare la muscolatura del collo e soprattutto la muscolatura delle spalle, che molto spesso è interessata. Scendendo per le nostre gambe, che magari... Per le nostre gambe mi viene da pensare ai traumi sportivi o anche della vita di tutti i giorni, la classica distorsione di caviglia o la distorsione di ginocchio. Bene, tutte queste situazioni acute prevedono l'applicazione di borsa del ghiaccio, 15-20 minuti, mentre il classico mal di schiena, quando questo mal di schiena è di origine tensiva, muscolare, allora potrebbe essere utile l'applicazione di caldo locale. Dottore, ma il caldo e il freddo possono essere anche usati in coppia, ad esempio alle terme, nei percorsi idroterapici. Il continuo passaggio dal caldo al freddo funziona, mi passi dire, come una sorta di ginnastica vascolare. Il freddo restringe il calibro dei vasi sanguigni, il caldo determina l'effetto contrario e tutto questo stimola la circolazione sanguigna e ci regala tono e anche quella piacevole sensazione di leggerezza. Perfetto. Ecco, anche a casa, no, possiamo sfruttare l'azione alternata del caldo e del freddo. Naturalmente non possiamo pretendere gli stessi risultati che otterremo in una spa, ma quando potrebbe essere utile, dottore? Ma io il termine che ha usato lei, massaggio vascolare, è perfetto, vale a dire il caldo e il freddo alternati possono dare questa stimolazione ai nostri vasi sanguigni per favorire la nostra circolazione, però per sfruttare questo stesso effetto in casa diventa un po' complicato. Certo. È molto più semplice invece utilizzare o il caldo o il freddo, per esempio un bagno caldo con una temperatura dell'acqua non eccessiva, oppure addirittura un bagno freddo, e quindi l'immersione per esempio dei soli arti inferiori in un'acqua intorno ai 10-12 gradi per pochi minuti può risolvere una situazione di pesantezza degli arti o di dolori muscolari in soggetti per esempio che hanno fatto una corsa a lunghe distanze o una partita di calcio o una partita di rugby, per smaltire le tossine e rilassare la muscolatura. Però lo sappiamo bene, non sempre il caldo e il freddo ci sono amici, e lo sa anche chi ci sta ascoltando con tosse, mal di gola, mal di testa, qualche linetta di febbre. In linea con noi abbiamo il mio influenzologo preferito, il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Ma è con l'influenza si ritorna, eh sì, con le tasse. Io la frequento sempre quando c'è l'influenza. Primi freddi, ambienti caldi, eccoci alle prese con l'influenza e dintorni, e simili influenze, infatti quella vera arriverà più tardi. Ma intanto, professor Pregliasco, che cosa si fa? Tutti al caldo? Bisogna stare attenti agli sbalzi termici, perché quello che si vede adesso, cioè tutta una serie di infezioni respiratorie magari non pesantissime come quella tipica in vera influenza, che comunque arriverà, pensiamo appunto da Natale in poi, che vedono facilitato il loro lavoro da questi momenti di cambio di temperatura che questi anni e quest'anno sono veramente all'ordine del giorno, anzi delle ore della giornata. Questi virus quindi in quel momento riescono a passare la barriera della parete delle vie respiratorie e poi causano questi effetti. Quindi non è tanto l'esposizione al freddo o al caldo, ma appunto questi momenti di sbalzo di temperatura. Quindi rimangono considerazioni di buon senso. I miei figli dicono sempre delle cose banali. Ma beh, questo lo dicono tutti i figli, non si crucci. Però è ribadire, ricordare quello di dire vestiamoci a cipolla, ecco, una considerazione banale. A proposito di abbigliamento, professor Pregliasco, un tempo si indossava la maglia della salute, a proposito di figli, adesso non la vogliono più. All'aperto. Ecco, adesso non è più di moda. Ma professor Pregliasco, lei la porta? No, nemmeno io, è vero. Mannaggia. Una maglietta sì, una maglietta rigida, perché in effetti il sbalzo termico ha azione a livello delle vie respiratorie, ma anche può dare, ben noto, problemi a livello gastroenterico, proprio collegati quindi a un cambiamento della motilità intestinale. Ma quindi è importante un'attenzione in questi momenti anche alle norme generali di igiene, perché poi quello che ci ha raccontato Topo Gigio per l'influenza pandemica vale ogni anno e anche in questo periodo, quindi lavarsi le mani, l'attenzione ai luoghi caldo, umidi, che sono luogo dove i virus poi albergano di più. Lavarsi le mani accuratamente. Di fatto è una norma ancora più di buon senso, al di là di quella che dicevamo di vestirsi a cipolla, che anche qui trascuriamo, la sappiamo, a domanda rispondiamo correttamente, ma poi se andiamo a vedere nell'operatività tralasciamo questi aspetti di norma e direi di assolutamente buon senso. Professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata e grazie. Noi andiamo ad Alberto che ci chiama da Verona, 800 24 0024. Benvenuto Alberto. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Per la trasmissione. Senta, io ho una fascite a livello calcaneare plantare e volevo sapere se era consigliabile usare del freddo o del caldo. Grazie Alberto. Dottor Melegatti. Dunque, la fascite quando si manifesta in modo acuto, quindi ed è questo è possibile che si manifesti a seguito magari di una partita di pallone oppure di una corsa prolungata, allora in quel momento bisogna utilizzare la borsa del ghiaccio, è buona norma. Però se si presenta in modo subdolo, quindi nei giorni, e ci si ritrova dopo qualche settimana con la fascia plantare molto rigida e dolente a ogni passo, soprattutto al mattino quando ci si alza dal letto, allora in quel caso bisogna impostare una terapia che può essere e deve essere incentrata sull'applicazione di caldo endogeno, per esempio ultrasuoni o onde d'urto, quindi questa è un po' la distinzione. E a proposito di caldo, io torno alla mia bull dell'acqua calda, perché le nostre nonne la consigliavano per i dolori di pancia e sembra avessero ragione, la scienza conferma, insomma è il caso di dire che riscopre l'acqua calda. Mamma mia che mal di pancia, ma che male mi è venuto all'improvviso, ma chissà chissà perché. Il calore prodotto dalla borsa dell'acqua calda aumenta l'energia e la circolazione sanguigna nell'apparato digerente, quindi diventa un toccasana quando si è esagerato a tavola. È quanto emerge dallo studio firmato dal dottor Brian King del University College di Londra. I risultati della ricerca sottolineano come la bull dell'acqua calda non sia solo un placebo, ma sia effettivamente in grado di far passare, almeno temporaneamente, il mal di pancia. Questo succede perché il calore emanato dalla borsa bloccherebbe l'avvio dei messaggi che dallo stomaco vanno al cervello per comunicargli la sensazione di dolore. E pensare che ho mangiato per me. Allora, l'acqua calda diventa terapeutica. In linea con noi il dottor Stefano Fagioli, direttore di gastroenterologia all'ospedale Runiti di Bergamo. Buongiorno dottore, bentornato. Nicoletta. Allora, questa bella bull dell'acqua calda. Ma in effetti quasi sempre le nonne hanno ragione, no? La medicina migliora. Dica molto. Anche le mamme. Sì, per favore. Ma è più caldo. Magari qualcuno caldo, ci sente. Sì. Parlando di calore, la nonna, insomma. Però in effetti molti dei vecchi rimedi avevano delle ragioni pratiche. Il vantaggio di questo studio inglese è che dimostra che alcuni recettori che sono attivati da una temperatura di circa 40 gradi, e perché se è più bassa di quello non vengono attivati, e non andrai molto più su, perché poi il problema invece è di farsi dei danni da calore, ovviamente. Sì. Però questi recettori vengono attivati a quella temperatura e interferiscono con i recettori che sono quelli della trasmissione del dolore, quindi riducono la sensazione del dolore. La cosa funziona ovviamente su quelle condizioni tipiche da eccessiva distensione degli organi cavi addominali, quindi vanno bene per la mangiata un po' abbondante o per chi ha abitualmente dei problemi ciclicamente, come i dolori mestruali, i dolori mestruali, oppure possono essere anche persone che hanno cistiti ricorrenti, quindi diciamo cose che riconoscono facilmente. Questo può alleviare temporaneamente il dolore, perché la verità è che mantenendo attivati questi recettori per un po' di tempo poi si adattano e questo effetto viene perso comunque. Quello che conta non è alleviare questi dolori, se vogliamo anche banali, ma è non considerare il dolore come la malattia. Il dolore è il segnale del nostro corpo che dice c'è qualcosa che non funziona, bisogna prendere quantomeno un provvedimento per capire cos'è la causa di quel dolore, per cui va bene la borsa dell'acqua calda per le condizioni che abbiamo detto, ma se il dolore tende a non passare o se è un dolore nuovo mai avuto, beh, insomma, il consiglio è comunque che vale la pena di capire da cosa nasce quel dolore. Ecco, invece della borsa usiamo il medico. Quello sì, che poi non siamo tutti così caldi e così bravi, però ce la potete ci si fare. Può provare, ci si può mettere un po' di impegno, ecco, mettiamola così. Dottor Fagioli, grazie per essere stato grazie con noi, a voi. Buona giornata. Buona giornata. Daniela, buongiorno, dalla provincia di Vicenza, 800 24 00 24. Caldo o freddo? Benvenuta. Io sono affetta Mi sa, Daniela, sai che dobbiamo richiamarla perché non la sentiamo bene? Allora do la linea a Matteo che ci chiama da Bologna. Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sì, io avevo una domanda un po', diciamo, un po' particolare. Il mio caso è questo. Quando avevo 18 anni pesavo 68 kg. Sì. E dopo 10 anni di pesi, diciamo, non fatti a livello, diciamo, professionale, però con una buona intensità, sono arrivato a pesare 98 kg. Ricordo quando avevo 18 anni e pesavo 70 kg, quando andavo a correre, facevo le cosiddette corse campestri, e che insomma finita la corsa c'era qualche dolore muscolare, ma niente, ma nessun problema alle articolazioni. Sì. Mentre adesso, anche a fronte di sforzi molto più lievi, cioè diciamo corse molto più corte, e quando finisco, diciamo, le ginocchia mi fanno molto male. E io volevo chiedere se appunto... Mi sa che il dottor Melegatti la mette a bagno in acqua e ghiaccio, però non vorrei sbagliarmi. Dottor Melegatti? Ma il problema è chiaramente un problema da sovraccarico. Matteo ha preso tutti questi chili in questi anni, probabilmente troppi per la sua struttura fisica, e allora a seguito di una corsa e quindi a seguito di una sollecitazione continua le articolazioni si infiammano. Allora, se questa situazione dopo la corsa prevede il gonfiore delle ginocchia, le ginocchia calde, dolenti, allora la borsa del ghiaccio subito dopo la corsa potrebbe essere utile, però io direi che varrebbe la pena magari di trovare un'altra strada e quindi trovare un'attività aerobica diversa dalla corsa, a più basso impatto, potrebbe essere il nuoto o la bicicletta. Quindi al di là dell'applicazione del freddo immediato per alleviare temporaneamente il dolore, allora direi che il problema va affrontato in maniera più profonda e più strutturata. Dottore, noi parleremo delle terapie che sfruttano l'azione del caldo e del freddo per ridurre l'infiammazione, attivare i processi riparativi, per ridurre il dolore. Chiedo ai miei ascoltatori se hanno dei dubbi di intervenire all'800 24 00 24 e se le hanno già provate di raccontarci gli eventuali benefici, o magari qualcuno di voi, come mi sta già scrivendo, sono rimasti insoddisfatti e stanno cercando una terapia più efficace. Essere e benessere. L'inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Eppure pensate che c'è un signore che al freddo resiste benissimo, e lo scorso aprile ha stabilito un nuovo record rimanendo immerso in cubetti di ghiaccio un'ora e 50 minuti. Chiamateci al numero verde 800 24 00 24, la prima telefonata con la risposta giusta e quindi il nome di questo signore, sapete già che è un uomo, riceverà a casa, in collaborazione con la libreria Rizzoli.it, Il freddo modifica la traiettoria dei pesci di Pier Zalowski, Rizzoli Edizioni. Intanto abbiamo recuperato Daniela che ci aveva chiamato dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Daniela, lei mi deve dire per favore che lei non fa sport, perché un mio ascoltatore mi fa dei complimenti carini che io apprezzo molto, ma mi dice: non parlate solo delle persone che fanno sport, noi parliamo anche delle persone che non fanno sport. Daniela, dica che lei non le fa. Non ne faccio molto in questo Bene, momento, perché okay. sono mamma da non molto tempo, e uno dei motivi per cui chiamo è che purtroppo mi si è riacuita col bambino la sindrome del tunnel carpale, prendendomi tutto il braccio e anche la parte posteriore un po' della schiena. Quindi mi chiedevo se era opportuno utilizzare caldo o freddo. Certo, tunnel carpale da spupazzamento pupo. Dottor Melegatti. Ecco, in questo caso il freddo non è consigliato, perché potrebbe irritare i nervi che vengono già compressi a livello del canale carpale. E allora in questo caso un caldo moderato potrebbe essere utile, però dubito che il solo trattamento col caldo possa risolvere il problema. Il problema va risolto in maniera un po' più radicale, facendo della fisiochinesiterapia e consultando uno specialista. Quali sono i trattamenti che potrebbero venire consigliati? Potrebbe venire consigliato un ultrasuono a immersione. Questo può essere utile. Cosa sono? Sono delle onde sonore ad alta frequenza che innescano una sorta di caldo endogeno che favorisce il rilassamento dei tessuti, e in una situazione di compressione di un nervo, la struttura che comprime, che spesso è una sorta di legamento, potrebbe venire rilassato e quindi potrebbe permettere una migliore conduzione nervosa da parte del nervo. Altre terapie, per esempio un laser soft a infrarossi, oppure terapie fisiche come elettrostimolazioni superficiali, come TENS, potrebbero essere utili, ma se persiste il consulto di uno specialista potrebbe essere in questo momento meglio cambiare braccio. Esattamente. Nel prendere il bagno. Laura Vanossi se la ride in redazione, però è vero, perché questi piccolini sembrano leggeri, ma se uno se li porta in, vero, anche Carmelo Lauricella che è in regia annuisce, però insomma hanno il loro bel pesuccio. Certamente. Gianfranco da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti. Volevo fare una domanda alla professor Melegatti. Sì. Ecco, allora, un paio di mesi fa esatti, a seguito di una lunga camminata anche su terreno sconnesso, mi si è gonfiato il piede sinistro all'altezza proprio del collo del piede. Ecco, ma questo senza particolari fastidi o dolenzie. Dopo 2 o 3 giorni di tranquillità, diciamo, anche perché ero in vacanza, quindi mi dispiaceva stare fermo, ho ripreso le mie camminate, ho fatto anche dei trekking piuttosto impegnativi, questo per i successivi 15 giorni, e notavo che la sera questo collo del piede, anche la parte sopra, continuava a gonfiarsi. Ecco, per farla breve, adesso è già circa 1 mese e mezzo che sono a riposo, il gonfiore non c'è più. Però ho ancora, diciamo, fastidi al mattino quando mi alzo, quando dottore, ho un po' il piede, e chiudo dicendo che mi è stata diagnosticata una tendinite tibiale anteriore. Sì, volevo sapere se le ionoforesi o i laser possono andare bene adesso per togliere questa infiammazione, credo. Sì. Dottore, mi scusi, prima di tutto, Gianfranco ci ha raccontato, no? Mi è gonfiato il piede, sono stato un po' fermo, poi ho ripreso. Ecco, iniziamo proprio da questo, da qui. Cioè, certo. Ci sono, quando facendo, mi dispiace per il mio amico, che poi chiudo subito con i problemi di chi fa sport, ma quando noi sollecitiamo un'articolazione, una parte, e vediamo che gonfia, poi aspettiamo e vogliamo subito rimetterla alla prova. C'è un tempo minimo da rispettare di riposo? Che cosa possiamo fare? Quali sono gli errori da evitare, soprattutto? Innanzitutto il primo presidio da adottare è borsa del ghiaccio, vale a dire quando si presenta una tendinite acuta, e probabilmente si è presentata per causa di uno scarponcino un po' troppo stretto, quindi di un'irritazione a livello del tendine del tibiale anteriore, allora in quel caso ghiaccio e riposo, però riposo attivo, vale a dire cambiare scarpa, mantenere una mobilità del piede, mantenere la forza muscolare, quindi con camminate con un paio di scarpe diverse, e borsa del ghiaccio ripetuta durante la giornata. Ma se il problema poi si cronicizza, come è il caso credo di Gianfranco in questo momento, allora ci sono altre terapie da utilizzare, terapie calde, per esempio un ultrasuono a massaggio oppure una terapia laser potrebbero essere utili, insieme a fisioterapia magari in acqua per migliorare la mobilità del piede e mantenere un buon tono muscolare. Voglio ripetere la sfida di oggi per i nostri ascoltatori, che potranno ricevere a casa Il freddo modifica la traiettoria dei pesci di Pier Zalowski. Vogliamo sapere il nome del signore che lo scorso aprile ha stabilito un nuovo record rimanendo immerso in cubetti di ghiaccio per 1 ora e 50 minuti. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, e dottor Melegatti dalle le vasche piene di cubetti di ghiaccio, passiamo alle stanze del freddo, in cui la temperatura scende sotto tra i meno 100 e i meno 140. È la crioterapia total body, con effetti rigeneranti. Qualcuno l'ha definito una sauna al contrario. Sì, in effetti è una terapia relativamente innovativa, relativamente nuova, esiste in Europa già da parecchi anni, in Italia si sta facendo solamente in questo periodo, ed è una sorta di esposizione dell'organismo a temperature veramente rigide, fino a 140, anche a meno 160 gradi centigradi, dipendentemente dalla immaginare. Contrariamente a quanto uno può pensare, è assolutamente ben tollerato l'esposizione a questo freddo estremo, anche perché è un'esposizione molto breve, durante la quale ci si muove, quindi sicuramente non si espone l'organismo a rischi. Non è descritto in letteratura nessun rischio a seguito di questa metodica, questo perché la nostra cute, la nostra pelle è l'isolante naturale migliore che c'è e quindi riesce a preservare il calore all'interno del nostro corpo. Cosa succede a questa esposizione? C'è una sorta di reazione di difesa dell'organismo che provoca una vasocostrizione cutanea e sottocutanea, e a questa vasocostrizione segue una vasodilatazione improvvisa quando il soggetto esce da questa criocamera. Questa vasodilatazione improvvisa riesce a far spingere il sangue in zone del nostro corpo che di solito non sono perfettamente irrorate, e questo favorisce degli effetti straordinari, un effetto per esempio contro il dolore, o un effetto antinfiammatorio molto spinto, un effetto miorilassante o anche un effetto di stimolazione di alcuni ormoni del nostro organismo, quindi una sorta di effetto decisamente benefico non solo per alcune patologie ma anche per persone sane che semplicemente beneficiano di questo effetto per stare meglio. Essere e benessere. Siamo di nuovo qui, con noi Alessandro che ci chiama da Viterbo. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Sì, buongiorno, il mio problema è questo: io sento bruciore alle ginocchia, credo che provenga dalle cartilagini, sia all'estate quando è caldo che all'inverno. Sto usando del silicio, sto facendo le camminate, però non riesco a risolvere questo bruciore. Volevo sapere se con il caldo, con il freddo posso risolvere, o comunque come devo fare. Io penso, perché l'anno passato ho utilizzato in maniera sbagliata la cyclette, forzando un pochino, da quel momento ho bruciore quasi continuo, ecco, volevo sapere. Grazie Alessandro. Dottor Melegatti, ma le cartilagini come fanno, amano il caldo o il freddo? Ma le cartilagini amano il caldo, caldo moderato. Un po' come me. Bisogna capire bene se questo problema di Alessandro proviene effettivamente dalle cartilagini, come sembrerebbe. Sembrerebbe un problema di eccessiva pressione tra la superficie della rotula e il ginocchio stesso, per cui caldo moderato, quindi terapie che prevedono il caldo moderato potrebbero essere utili, però il consiglio che do ad Alessandro è quello di approfondire la situazione, il problema, rivolgendosi a uno specialista per capire bene da dove nasce il problema. Fabio dalla provincia di Venezia, buongiorno. Sì, pronto? Fabio, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno. Sì, io ho telefonato perché volevo chiedere un parere riguardo una borsite. Una borsite al tendine d'Achille. È un qualcosa che mi è stato diagnosticato alcuni anni fa, ho fatto l'acido terapia e ho avuto effettivamente un beneficio, non ha risolto, però indubbiamente forse perché c'era bisogno di più sedute, ho fatto un ciclo di 10 sedute, ma sì, diciamo non è sparita. Ecco. E allora mi chiedevo se la situazione, poi ovviamente avendolo trascurata, non è migliorata. Esatto. E, diciamo, per il tipo di attività sicuramente io non potrà migliorare. Ovviamente cambiando le scarpe, eccetera, certo, qualcosa aiuta, però ecco. La sento un po' sconsolato. Dottor Melegatti, Fabio, cosa può fare? Ma in effetti questo è un problema che affligge parecchie persone che fanno sport regolarmente, soprattutto corsa a lunghe distanze, e ed è fonte di frustrazione la borsite, perché quando si cronicizza poi diventa resistente. Che sintomi dà? Sintomi di dolore soprattutto alle attività, alla corsa, sì, dolore alla palpazione, dolore se uno veste delle scarpe un pochettino aggressive, un po' strette posteriormente. Allora, questa è una patologia da da aggredire in maniera importante, vale a dire addirittura anche con una soluzione chirurgica se le terapie fisiche non danno beneficio. Io ripartirei con una terapia che si chiama tecarterapia e farei almeno 12 applicazioni di tecarterapia e associerei a questa terapia, che è una terapia che prevede la genesi di calore profondo all'interno della borsa, tale da gradualmente togliere questo processo infiammatorio cronico, assieme alla tecara anche però un lavoro di stretching e di rinforzo muscolare del tricipite. Alla Heidi, le guance rosse, le mani screpolate, la pelle del viso tira, insomma il freddo irrita la nostra pelle. Buongiorno al professor Giuseppe Monfreco, l'ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Professore. Buongiorno a lei, radioascoltatori. Come sta? Io sto bene, grazie. Primi freddi, la pelle inizia a tirare, un po' si arrossa. Eh sì, perché noi sappiamo che l'inverno è caratterizzato ovviamente da calo della temperatura, che a volte da un freddo secco, a volte un freddo umido. Poi non dimentichiamo che c'è un passaggio brusco da freddo a caldo, da ambienti surriscaldati, quindi ambienti freddi esterni e viceversa, insomma la cute necessita di un certo adattamento. E in questo caso purtroppo due sono i bersagli cutanei del freddo, fondamentalmente lo strato corneo. Tutti quanti sappiamo che c'è un ultimo strato di pelle, che è multistrato per dire la verità, fatto da cellule oramai morte, come delle foglioline impilate le une sulle altre. Ebbene, sono fondamentali perché ci proteggono dall'esterno. Il problema qual è? Che il freddo agisce sullo strato corneo creando secchezza e disidratazione. E l'altro bersaglio, ne ha accennato lei scherzando su Heidi poco fa, sono i piccoli capillari che irrorano e nutrono la pelle, che sono molto più abbondanti sul viso che su altre aree del corpo. E questo perché? Perché la pelle non solo deve nutrirsi, ma deve anche termoregolare, cioè deve servire a stabilizzarci verso la temperatura esterna. E allora i capillari si dilatano se c'è caldo, si contraggono se c'è freddo, e questo può spiegare gli arrossamenti invernali, soprattutto nei bruschi cambi di temperatura. Ecco. Quindi abbiamo bisogno di idratare la nostra pelle, di proteggerla. Noi donne possiamo utilizzare il trucco, il fondotinta, che in qualche modo ci scherma dall'azione del freddo, professore? Direi che forse è un po', diciamo, riduttivo tutto quanto, perché c'è bisogno di fare forse qualcosa in più addirittura. Naturalmente dipende dalle condizioni ambientali, dipende anche dal tipo di pelle, però certamente lei dice una cosa sacrosanta, indicando negli idratanti, negli emollienti e anche, se mi permette, nei detergenti adatti, perché se non dimentichiamo che nel momento in cui laviamo la pelle, noi poi portiamo via dalla pelle un qualche cosa di protettivo, che è il grasso, il sebo che ricopre la pelle, quindi anche questo deve essere tenuto in conto. Quindi detergenti non troppo sgrassanti, idratanti ed emollienti da applicare piuttosto frequentemente durante la giornata, naturalmente questo per pelli normali, non dimentichiamo che ci sono delle cuti molto sensibili. Molto sensibile, pensiamo a quelle dei bambini. Esatto, degli anziani, degli atopici, cosiddetti bambini o persone con dermatite atopica, o anche con gli psoriasici, sono tutte persone che hanno pelle particolarmente secca già di per loro e che durante l'inverno purtroppo tendono a soffrire ancora di più di questa secchezza, con prurito, con arrossamenti e con aggravamento della loro patologia. Quindi queste persone vanno salvaguardate ancora di più nei confronti degli sbalzi di temperatura. Con naturalmente prodotti mirati. Dedicati, perfettamente mirati e ben bilanciati, ma soprattutto ben formulati, non devono contenere ovviamente sostanze che possano poi creare dei problemi di sensibilizzazione in più. Poi per quanto riguarda invece il problema dell'arrossamento, ecco, qui la cosa cambia naturalmente aspetto. Cambia aspetto perché noi abbiamo quella che può essere definita così banalmente una cuperosi, in realtà che cos'è? Sono dei capillari un po' dilatati che si sono stabilizzati nella loro dilatazione, e questo dipende fondamentalmente dalla genetica dei soggetti, quindi la persona può essere predisposta o meno e dall'ambiente, ma attenzione, non solo il freddo ma anche il sole, che può essere anche quello dell'estate ma soprattutto quello dell'inverno, e quindi poi i vari rimedi. Rimedi che possono essere applicazioni di creme contenenti sostanze naturali, per esempio faccio cenno ai bioflavonoidi, sono sostanze naturali, l'alimentazione ricca di mirtillo, di ribes, quindi sostanze che hanno una particolare propensione a proteggere i capillari. E tra quelle invece di stagione quale possiamo scegliere? rispetto a quelle di stagione, guardi, tutta la frutta e tutta la verdura contiene vitamine e sostanze naturali che possono darci un aiuto in questo. Naturalmente questo se se ne fa un uso congruo e certo. Non si tende a essere così monotematici nell'alimentazione, quindi l'alimentazione quanto mai varia. Grazie. Grazie professor Monfrecola per essere stato con noi. Io vi saluto, devo andare. Mi spiace, ma nessuno di voi ci ha dato la risposta corretta dell'uomo che l'anno scorso anno ha vinto proprio un record, è il cinese Wang Yintu. Lo metteremo comunque sul nostro profilo Facebook. Grazie al professor Monfrecola, molte grazie al dottor Gianluca Melegatti che ci ha accompagnato. Chiedo a Simona di scriverci a esserebenessere@radio24.it perché il desiderio di rispondere c'è, ma purtroppo il tempo manca. Grazie, a domani. Essere e benessere.